in ufficio informazioni sono diventato santa pazienza. E tu cosa sono fatto? Mia sorella che è ad Alghero per un paio di giorni con col marito, bambini, suocera e suocero, e mi stava chiedendo se c'erano fuochi d'artificio in zona, di guardare su internet a Ponau, mamma mia, anche ufficio informazioni sto diventando. Non so se domani ci sono ad Alghero, se li fanno dopo. So che però c'è qualcosa, non so dire esattamente che cosa è stato, non lo so. Va bene, dai, a me mi hanno chiamato per il pranzo, se ci sei volentieri ci sentiamo dopo, altrimenti ti auguro buon fine serata. Se non ci dovessimo sentire, spero di no, domani ci dovremo sentire. Un buon Ferragosto a te famiglia, Salvatore. Se ci si, ripeto, ci sentiamo più tardi. Buon pranzo, buon tutto e saluti al collega familiare. Grazie, grazie, troppo gentile come sempre, avete cambiato al 100% a tutti quanti. Passate una buona giornata e soprattutto un buon riposo pomeridiano, perché mi sembra che ne abbia fortemente bisogno, caro Claudio, credo che ne abbia fortemente bisogno. Ciao, buon tutto, buon proseguimento, nel caso ci sentiamo stasera. Ciao Salvatore, grazie a te, mi hai detto bene, perché dopo pranzo, guarda, un paio d'ore me la devo fare tranquillamente. C'è un silenzio qua che è proprio di quelli allucinanti. Quindi mi faccio un riposino, poi magari in serata ci risentiamo, dai. Di nuovo, buon fine e buon pranzo, ci ascoltiamo stasera. Ciao Salvatore, grazie delle due chiacchiere. Ciao, grazie a te, come al solito. Ciao. Ciao.